Mandzukic mi risulta che sia domiciliato a Madrid, Jackson Martinez è a Porto ma non è tanto lontano. Chi era il terzo? Condobbia Montecarlo sulla strada passando per andare a Madrid dall'alto, quindi la rotta è quella giusta. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Subito il numero 800 24 00 24, qui fino alle 15:30 vi aspettiamo, milanisti delusi, interisti felici, parliamo anche di altro. Pier, ci sei? Come va? Bene, se tu avessi 75 milioni di euro da spendere con oculatezza, ad esempio, chi prenderesti tra Cavani, Ibrahimovic, Bacca, Jovetic, Zeko, Luiz Adriano e Witzel? Ma più di tutti prenderei Cavani, però poi dipende dai prezzi, insomma. E Ibra, sai che secondo me è una grande ipotesi. Però se hai 75 milioni ne puoi anche fare due, ha detto Galliani, un grande attaccante, un grande centrocampista. Con 75 ne fai due, nel senso che 75 erano per Jackson Martinez e per Condobbia, quindi i margini ci sono, come dicevamo ieri, chi ci ascoltava lo sa, insomma, alla fine il dato rimane quello di un Milan che ha capacità di spesa, però di un Milan più fragile, più debole rispetto a qualche anno fa, che quindi deve incassare qualche delusione e qualche no che non preventivava. Però è ripartita la ruota, un giorno di così, un giorno sotto shock e poi è ripartita la ruota. Oggi i giornali, insomma, ognuno aveva il suo attaccante, la sua soluzione. Tutti concordi, Pier, solo su una cosa, tu lo sai, perché ieri io l'ho già detto, sono un po' scettico. Comunque, l'unico colpevole di tutto era Nelio Lucas, no? Quello che era lì a titolo personale, che non c'entrava nulla, e alla fine è l'unico colpevole. Sì, c'è della confusione sicuramente, c'è della confusione abbastanza ovvia, abbastanza evidente, di ruoli, di immagine, e poi siamo di fronte a un fallimento, e quindi insomma vedrà qualcuno che ci metta la faccia o fare anche semplicemente il gioco del cerino. La verità è, per me, appunto, riassunta in questi due concetti, cioè che da un lato il Milan, e questa è una buona notizia per i tifosi rossoneri, ha recuperato una capacità di spesa che l'anno scorso non aveva, ed è oggettiva, perché poi i contratti erano stati firmati, gli accordi erano stati presi, per cui non è che è il Milan che ci ha ripensato all'ultimo momento perché non aveva i soldi. Il Milan, anzi, ci è rimasto male perché le offerte le aveva fatte ed era sicuro di avere i due giocatori in mano. E poi che sia meno attraente rispetto a qualche anno fa è semplicemente il frutto di una serie di stagioni meno brillanti, che quindi la rendono, diciamo, meno attraente a livello internazionale. Ma per risolvere questo problema c'è una sola possibilità per il Milan, come per tutte, che è vincere. Investire, vincere e tornare nel giro che conta. Scrive un amico al 349-238-6666. Io lo invito a non perdere la speranza. Lui scrive: dai, basta nomi ad minchiam, sta rinnovando Pazzini e Bonera. Io non credo che andrà così, però avremo tempo di parlarne dopo il traffico. Intanto, brutta notizia, questa brutta notizia davvero, c'è poco da scherzare. Due minuti fa Parma dichiarato ufficialmente fallito, nessuna offerta per l'acquisto del club, che a questo punto dovrà ripartire dai dilettanti. Sì, pronto? Sì. No, non sapevo se stavi lanciando il traffico. No. Beh, la notizia è funerea, in qualche modo era nell'aria già stamattina, e c'è poco da aggiungere, insomma. La sintesi, diciamo, la chiosa, l'unica cosa che mi viene da fare è che è troppo facile nel calcio di oggi, come abbiamo sottolineato mille volte con gli stessi protagonisti, ammalarsi in maniera improvvisa. Cioè, un anno fa di questi tempi l'unico segnale, per chi comunque valuta le cose da fuori, era il fatto che il Parma si era visto negare questa licenza UEFA, aveva avuto quel famoso problemino con l'IRPEF, ma insomma sembrava veramente una dimenticanza, nulla di più. E invece sappiamo che dietro c'era un casino di proporzioni bibliche, e quindi questa è l'unica considerazione che mi viene da fare. Poi ovviamente facciamo un grande augurio al Parma di tornare rapidamente ai livelli degli ultimi anni, che sono stati anni, se vogliamo, anche al di sopra della realtà del bacino d'utenza di Parma. Cioè, Parma ha vissuto 20 anni nettamente al di sopra delle proprie della possibilità, sua dimensione di città, no? Una città molto, molto ricca, poi ha avuto dei problemi ovviamente con la Parma, la sua città dal punto di vista industriale storicamente molto ricca, nel vero gastronomico soprattutto, insomma, e per 20 anni ha viaggiato su ritmi da grande città, da grande squadra metropolitana, vincendo anche delle coppe importanti, e poi è crollata proprio di fronte a una gestione che sembrava invece oculata. Ecco, questa è la cosa che mi fa un po' impressione. C'è anche un'altra riflessione, secondo me, che si può fare, Pier, e cioè il Parma fallisce e dispiace a tutti, perché poi c'è anche il dramma, ad esempio, di chi per il Parma lavorava, non solo i calciatori, certo, non solo quelli che hanno preso stipendi anche milionari e che non hanno problema ad arrivare alla fine del mese, quindi c'è un dramma e noi partecipiamo e spiace, però è stato fatto di tutto per salvare il Parma e io credo sia giusto che non venga fatto quel passo in più che finirebbe per diventare arbitrio, si parla di ripescaggi, questo lo dico senza, davvero senza astio nei confronti degli amici di Parma, con grande simpatia, però va detto, sono d'accordo con te, cioè, c'è un punto oltre il quale si va nell'accanimento terapeutico. Il Parma ha ricevuto durante la stagione, e io sono perfettamente d'accordo, tutta una serie di piccole grandi attenzioni per poter finire la stagione in maniera dignitosa, per poter ripulire il più possibile il debito, fare in modo che fosse soltanto il debito sportivo a pesare e vedere se all'interno dell'ambiente parmigiano o anche da fuori potesse arrivare un'offerta realmente importante e realmente credibile. Questa offerta non è arrivata e dobbiamo accettarlo, non è, altrimenti si diventa dirigisti, come direbbe Berlusconi, dirigista, cioè si diventa un tipo di sistema nel quale il governo viene deciso dallo Stato. Sì, no? Ma si va anche contro magari i legittimi diritti di tanti altri. Pier, prima del traffico, ti leggo il comunicato del gruppo Ultras del Carpi guidati da Lambrusco. Meglio la dignità della Serie A. Minacciano di boicottare le partite in casa della prossima stagione perché vogliono che si giochi al Cabassi di Carpi e non a Modena, distante 18 km, un quarto d'ora di macchina, capienza dello stadio di Carpi 4.164 spettatori. Ricordo che per le regole della Lega la capienza minima per fare la Serie A è 20.000. Lo ha deciso a larga maggioranza, dice il comunicato del gruppo guidati da Lambrusco, la grande maggioranza degli oltre 50 presenti in assemblea. Io sono sempre dalla parte del Lambrusco, quindi già mi stanno simpatico. Sì, però credo che sia... Si può giocare a Modena? Credo che si possa giocare a Modena. Credo che sicuramente il Carpi possa avere uno svantaggio dal fatto di lasciare il suo impianto. Credo che anche il Frosinone, se dovrà lasciare il Matusa, anche se sappiamo che lì potrebbe esserci quella clausola, la famosa clausola Treviso, per le città che sono capoluogo di provincia, sicuramente avrebbe uno svantaggio, perché non fosse altro che per abitudine e per un certo tipo di impianto che dà un vantaggio, però insomma, questa è la Serie A. Ecco, a Carpi non si può fare la Serie A con 4.164 spettatori, lo diciamo. Sommessamente l'invito a farci un bel brindisi a base di Lambrusco, perché il fatto che debbano andare a giocare a 18 km di distanza è un segno che il Carpi ce l'ha fatta, e quindi dovrebbe essere vissuta come una benedizione, anche sì, se poi... e non come una forzatura. Pier, a proposito di 18 km, abbiamo il traffico, traffico, torniamo subito. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Tutti convocati. L'Inter qualche anno fa. L'Inter per esempio ha ceduto i Moratti a questo Toir, che peraltro non sembra sia intenzionato o abbia le capacità per apportare i capitali che farebbero dell'Inter una protagonista italiana ed europea. Mandzukic mi risulta che sia domiciliato a Madrid, Jackson Martinez è a Porto ma non è tanto lontano. Chi era il terzo? Condobia, Montecarlo, sulla strada passando per andare a Madrid dall'alto, quindi la rotta è quella giusta. Il colpo di mercato realizzato a tempo di record da Marotta per portare Mandzukic in bianconero. I rossoneri incassano anche la delusione per Jackson Martinez, che andrà all'Atletico Madrid. L'Inter vince il derby per Condogbia al Monaco, oltre a 35 milioni di euro. In questi minuti la firma sul contratto di 5 anni da 4 milioni e mezzo più bonus. Troppo caro. Ti leggo leggo alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. C'è chi chiede e ci chiede se Galliani dovrebbe dimettersi, però abbiamo detto che il responsabile è Nelio Lucas e lui è il responsabile di tutto. Poi c'è chi dice Berlusconi e Galliani sono anziani, fanno mercato come negli anni 80, quindi Ausilio e Fassone hanno vinto contro nessuno. C'è chi dice con 75 milioni di euro il Milan deve rifare difese e centrocampo, questo è Stefano da Palermo. Poi c'è chi consiglia Salamon, difensore centrale migliore della Serie B col Pescara. E insomma, ci sono tanti che suggeriscono che cosa si potrebbe fare con 75 milioni di euro spesi con oculatezza. Fammi salutare Franco Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Cosa faresti con 75 milioni spesi con oculatezza, tu? Io, guarda, prenderei una villa con giardino a Milano Marittima, mi trasferirei lì adesso fino a 23 agosto, poi il 23 agosto con un comodo elicottero affittato verrei a Milano per cominciare a vedere il campionato e così via. Questo è quello che farei io personalmente. In tempo anche per i giorni del Condor, se devono tornare i giorni del Condor, ma noi l'abbiamo detto anche ieri, non ci crediamo, amici milanisti, i soldi ci sono, quest'anno è stato un sabato da dimenticare, ma non si torna indietro. Volevo dire a quell'amico radioascoltatore che ha parlato di Salomon, sì, che tra l'altro io conosco abbastanza bene perché ha giocato anche in Serie C nel Foggia di Zeman, che era del Milan, che è stato mandato in giro prima al Brescia, dal Brescia al Milan, poi alla Sampdoria, adesso al Pescara, ma non è proprio il massimo della vita come difensore centrale. Sì, è un profilo che è stato testato perché era uno dei più promettenti, ma è un profilo che non si è confermato. È molto lento. Sì. Franco, noi da ieri abbiamo aperto questo tema, poi oggi leggendo i giornali abbiamo scoperto che almeno io personalmente ero dalla parte che ha perso, cioè noi ci rifiutiamo di credere che Nelio Lucas, quello che era lì a titolo personale e giusto come consulente accompagnatore, sia il responsabile di quello che è successo sabato. Ci dici no, la tua? No, quello che è successo sabato è responsabile parzialmente, nel senso che le due vicende, cioè Jackson Martinez e Condobbia, sono due vicende nettamente separate. In una il Milan ha scontato, cioè quella in Jackson Martinez, ha scontato la presenza di Nelio Lucas. Nelio Lucas è non è un segreto per nessuno, è il rivale numero uno di Jorge Mendes, che è l'altro guru degli agenti europei portoghesi. Sì, è l'altro padrone del mercato, quello che tratta Mourinho e tanti altri. Mourinho, Cristiano Ronaldo e compagnia cantando. Bene, il Milan si presenta a Oporto, conclude fissando il pagamento della clausola rescissoria con il Porto, poi si mette d'accordo con l'agente di Jackson Martinez, che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, Pompeo, ma nel frattempo il giocatore si trova dall'altra parte del mondo, in Cile per la Coppa America. A quel punto Galliani chiede al team manager della Colombia di concedere 24 ore di permesso a Jackson Martinez dopo la prima partita per consentirgli di effettuare le visite mediche. Tavana quelli dello staff sanitario del Milan trovano una struttura sanitaria vicino al ritiro della Colombia dove poter fare le visite mediche e prenotano anche il viaggio per andare in Cina. Però il permesso non arriva. No. Cosa succede? Succedono due fatti quasi in contemporanea. Primo, la Colombia perde la prima partita con il Venezuela e il CT, che non vuole sentire ragioni, abolisce il giorno di riposo preventivamente dato ai suoi giocatori. Quindi salta la possibilità di fare le visite mediche. Secondo, l'Atletico Madrid nel frattempo, mentre il Milan è sempre in attesa di avere un giorno libero a disposizione per poter fare queste benedette visite, perché giustamente Galliani non rischia. Sì, ma Galliani come chiunque altro, credo, si rifiuterebbe di fare un acquisto da 40 milioni senza fare le visite mediche. Da 40 milioni poi si ritrova con un cuore matto e lo inseguono con i bastoni. L'Atletico Madrid conclude due cessioni, quella di Miranda all'Inter per una cifra che si aggira intorno ai 15 e quella di Mandzukic alla Juve. A questo punto l'Atletico, che era con le casse vuote, si ritrova con il denaro, con i soldi da spendere per prendere Jackson Martinez, fa triangolo col procuratore e il Milan resta tagliato fuori. A quel punto Jorge Mendes non vede l'ora di far fuori Nelio Lucas, e allora a quel punto interviene e fa dirottare la gente dal Milan all'Atletico Madrid. Pier, non hai però l'impressione, anche da quello che abbiamo letto in questi due giorni, almeno io ho questa impressione, che si stia consumando ancora tutto un posizionamento che riguarda anche la trattativa tra Berlusconi e B, chi sta intorno a Berlusconi, chi sta intorno a B? Ieri Suma parlava di un Milan che deve smetterla di ragionare per fazioni. Sì, guarda, ieri Suma mi ha impressionato per onestà intellettuale, devo dire la verità, nel senso che comunque ha parlato di una società che non è stata brava nel chiudere la trattativa, e detto da parte di chi è comunque il direttore di un canale tematico, è comunque un'affermazione, voglio dire, coraggiosa, ma comunque sarà importante da sottolineare. Come faceva a dire il contrario, Pier? Scusa? Come poteva dire il contrario? Sì, no, certo, cioè, ma no, ma è chiaro come poteva dire il contrario, però voglio dirti... Si poteva anche non dire niente, Franco. Io un anno fa, mi ricordo di questi tempi, c'erano i tifosi della Juve che chiamavano e io mi sentivo nel mio piccolo di rassicurarli. E qui la sostanza è se il Milan ha i soldi o non ha i soldi. Poi, con tutto rispetto per Condobbia e soprattutto per Jackson Martinez, che è un attaccante che sicuramente rappresentava il profilo ideale, insomma, con quei soldi lì il Milan va e compra. È chiaro che adesso sarà una fase delicata, sarà una fase molto complessa, perché chiaramente il Milan è come uno che ha preso degli schiaffi e che quindi adesso potrebbe essere portato a fare degli errori, a ragionare sulla fretta. Chiaramente c'è tutta la pressione mediatica, il Milan si chiama Milan, è chiaro che se non fa certi acquisti, se passano i giorni e non riesce a risolvere e rimane con questa figuraccia nella testa, è chiaro che può essere un problema, cioè si lavora meno bene. Ma insomma, la vera domanda secondo me è se il Milan quei soldi ce l'ha o non ce l'ha, e siccome mi risulta, ecco, ma che tutti allora io vorrei rispondere prima al quesito di Giovanni quando dice qui c'è tutto un riposizionamento. Allora, diciamoci la verità, qui mio padre, il mitico Don Savino, sosteneva sempre, mi diceva da quando ero bambino, ricordati, frequenta sempre quelli meglio di te. Mister B si è circondato di gente peggio di lui, e adesso lo possiamo dire senza incorrere in nessun atto di lesa maestà. Questo Dana è un impresentabile. Sì, quello del tweet di ieri sui 5 milioni di topi. È un impresentabile. Da quale peraltro B si è dissociato in maniera chiara. Ha dedicato le pagine di interviste, devono ammettere di aver commesso un errore di valutazione clamorosa. Io posso mettermi questa medaglia al petto, che non lo conosco e non lo voglio conoscere. Sì, sono anche quelli che hanno seguito però la pista giusta sulla cessione del Milan, Franco, bisogna anche dire questo. Sì, ma sulla cessione, ascolta Giovanni, non per difendere Enrico Curro, visto che ci riferiamo a lui, perché scusami, no, qui le carte in tavola non si cambiano. Ci hanno detto che il Mister B avrebbe comprato la maggioranza del Milan, ci hanno detto e ci hanno bombardato con il fatto che Mister B diventava il padrone, Dana diventava al posto di Galliani l'amministratore delegato, Cannavaro l'allenatore, Paolo Maldini quello dell'area tecnica. Tutte puttanate, se vogliamo dire le cose come stanno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, al di là dell'impresentabile Dana, anche questo Nelio Lucas di Doyen, che è una società molto chiacchierata, è il secondo errore che ha commesso Mister B. Speriamo che sia l'ultimo della serie. Perché tu ti devi scegliere i consulenti, ma devi scegliere dei consulenti sui quali non c'è nulla da dire, devono essere come la moglie di Cesare. Sì, su cui non c'è assolutamente ombra. Il secondo quesito, quello posto da Pierluigi, a proposito, che è tra l'altro sulla bocca di tutti. Cioè, se ci sono i soldi o no. Ecco, ma allora io vi faccio questa domanda, scusate, ma proprio elementare dell'uomo della strada. Ma secondo voi, Galliani, che negli anni passati, nei 2 anni passati, nei 3 anni passati, diceva pubblicamente: entra uno se esce uno, soldi non ce ne sono, ma non sì, quest'anno c'è quest'anno un discorso diverso, c'è una però ragazzi c'è la borsa, allora. Se no qui mandano via tutti, non Galliani, mandano via noi, Franco, ti secondo, faccio chiudere, sì. Un secondo, quest'anno lui si è messo in aereo, è andato all'Oporto, mica lui perde la faccia con il presidente Pinto dell'Oporto senza avere i soldi in tasca, firmando la clausola di rescissione, ma cosa stiamo dicendo? I soldi ci sono e ci avanza anche il resto. Sono stati commessi in un caso, secondo me non c'è nessun peccato nel caso di Jackson Martinez, ma solo prudenza legittima. Nell'altro caso è stato commesso un errore di sottovalutazione. Loro non pensavano che l'Inter potesse rilanciare. Questa è la verità. E invece è successo. Franco, ti devo salutare, grazie. Vi saluto e vi abbraccio. Grazie, ciao, Franco. Ciao, ciao. PS, stai lì, c'è la borsa, un po' in ritardo, ma c'è la borsa. Che programma è questo? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta Tutti Convocati. Io sono fiducioso per natura, anche in un momento particolare come questo. I ragazzi li ho visti carichi dopo la gara, convinti che possiamo ancora farcela, quindi sono loro che mi stanno forse trascinando ad un'eventuale qualificazione. L'ostacolo più duro è battere l'Inghilterra, poi qualcosa accadrà di buono. Questo Gigi Di Biagio ieri, 800 24 00 24, sempre sperando che Svezia e Portogallo non facciano il biscotto nel campionato europeo dell'Under 21. Oh, voglio sentire un po' di ascoltatori, anzi vi invito, 800 24 00 24, siamo qui fino alle 15.30. Giulio da Madrid. Giulio. Buon pomeriggio da Madrid. Eccoci. Sono Giulio, Sponda Atletico, sono qui per rinnovare il mio abbonamento e volevo mandare anzitutto un saluto a Pardo. Ciao, ciao avvocato. Perché lui mi saluta, fa della mia passione col vi conoscete, sì. Sì, siamo sì, di aereo, non so se di ritorno dalla partita dell'Atletico, rapidamente faccio il biografo di Giulio. Se non sbaglio, barese, giusto? Sposato con una spagnola, tifoso del Real. Sì, purtroppo. Però abbonato colchonero da una vita, insomma, va bene. E invece tua moglie è abbonata al Real Madrid, socia al Real Madrid, no? Non così tanto, però. No, perché se no non potevi, cioè. Sarebbe stato difficile, sinceramente. E sono qui a Madrid, infatti sono arrivato ieri. Volevo giusto apportare qualche piccolo dato su Jackson Martinez, perché l'accordo l'hanno chiuso ieri sera in Portogallo il maggior azionista dell'Atletico, Miguel Angel Gil, il presidente del Porto, visto che poi loro oggi sarebbero partiti per la Cina, dove hanno il primo consiglio d'amministrazione con il gruppo Wanda, che è proprietario da quest'anno del 25% dell'Atletico. Quindi era necessario chiuderlo nella giornata di ieri. Hai capito, Pier, possiamo licenziare Bellinazzo, esatto, e i nostri, esatto, esperti. Ma di mercato. Ma chiusiamo da inviato, da esperto di Atletico Madrid. Ha fatto la fare la Juve o no? Io sinceramente considero Mandzukic un ottimo attaccante, esteticamente non eccezionale, però ha avuto grossi problemi con il gioco di quest'anno dell'Atletico, che era abituato a servire Diego Costa in contropiede, e Mandzukic, non essendo un velocista, ha sofferto tanto questo gioco. Il suo inizio di campionato è stato ottimo fino a Natale, tant'è che l'Atletico aveva un'offerta del Dortmund a Natale di 25 milioni di euro. Poi di lì il rapporto con Simeone si è un po' incrinato nell'ultima fase della stagione, tanto che Simeone si è un po' perso, ha segnato un po' meno. Resta che è il primo attaccante a memoria d'uomo nell'Atletico Madrid che va via venduto a meno di quanto sia stato pagato, e questo è anche un dato. Poi vedremo come andrà nella Juventus. Aspetta che c'è Nicolas da Parma, grazie. Sì. Nicolas. Buongiorno e grazie per la convocazione. Io volevo parlare un attimo del Milan e più significatamente del personaggio Nelio Lucas. Sì. Io volevo sapere praticamente la sua funzione all'interno appunto della società. Lui si diceva prima che con l'avvento di Mr. B poteva aiutare il Milan tramite la Doyen a portare giocatori, poi andiamo a vedere appunto gli ultimi giorni. Gagliani si butta su Condobbia, che è praticamente che lui all'interno delle Doyen, e va all'Inter, che con la Doyen non c'entra niente. Sì, e lo stesso è Martinez che finisce. Esatto. L'ha spiegato prima Frank Ordine, poi non tutti concordiamo sulla versione che Nelio Lucas sia responsabile di ogni cosa, giusto Pier? Però è evidente che da oggi le cose intorno al mercato del Milan cambieranno. Pier, ti presento Francesco Guidolin. Ah beh. Mister, buongiorno. Buongiorno, piacere. Come va? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, grazie. Molto bene, grazie. Quanta voglia di allenare c'è? Va abbastanza, ma deve capitare la cosa giusta. Ho passato un anno molto bello, quindi bisogna tener conto anche sì, di tante cose, insomma, che la mia carriera è stata lunga, piena di soddisfazioni, che c'era il bisogno da parte mia di fermarsi un attimo. Adesso ho ricaricato le pile. Mi sono aggiornato, ho studiato un po', ho guardato un po' in giro, ma deve capitarmi la cosa giusta. Sono in questa condizione, quindi da questo punto di vista sto molto bene, ma sono molto sereno. Mister, ma perché gente come lei, Prandelli, Ancelotti, Mazzarri, Zaccheroni, Montella, Spalletti, questa domanda l'abbiamo fatta anche ieri a Zaccheroni, quest'anno parte senza una panchina? È un ricambio generazionale? Ci sono motivi solo di stipendio? Io non credo nel suo caso, ma ad esempio nel caso di Spalletti, di altri colleghi, insomma, perché? Non lo so, credo che ogni storia sia individuale, come dire, ogni persona che lei ha citato per ogni persona che lei ha citato ci sarà un perché. Per quello che riguarda me è stata una mia scelta, nessuno mi mandava a casa da Udine. Sono stato io che avevo chiesto di fare un lavoro diverso, almeno per un periodo, di dare una mano in un altro ambito, perché credo che nella vita bisogna provare anche altre cose. La cosa non è partita, quel progetto non è arrivato, non è neanche partito, e niente di che. Per quello che mi riguarda, ripeto, io ho fatto una scelta di fermarmi per un anno e poi vedere le situazioni come potevano cambiare, e così è. Per altri magari sono successe altre cose, ci può essere stato o la scelta o un esonero o la voglia solamente di riposare, di fermarsi, quindi non si può. Sì, sono tutte storie che non possono essere comparabili. Anche un po' di cambio generazionale. Beh, fa anche bene. Ad esempio, poi dopo le chiedo una cosa su un allenatore che mi incuriosisce molto, però prego, Pier. No, io volevo capire in quest'anno sabbatico che cosa, se c'è una cosa che ha imparato Guidolin, una cosa che insomma, che più di altre si porta dietro, proprio come aggiornamento professionale, come un bravo studente che va a scuola e per un attimo si concentra sul lavoro degli altri. Ma sì, io niente di particolare, però per esempio mi è piaciuto il mini viaggio che ho fatto a casa Bayern Monaco da Guardiola, ho osservato un po' dei suoi allenamenti, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, ho visto una partita che lui stava preparando e mi è piaciuto proprio il fatto che la preparazione della partita e lo sviluppo della stessa erano conseguenziali, insomma, si capiva che c'era un lavoro dietro, del resto è così nel nostro lavoro e anche e soprattutto i più grandi interpreti, i più bravi allenatori sanno preparare le partite nel modo giusto, quindi vedere cose provate in allenamento e poi rivederle allo stadio durante la partita è stato interessante per me, ma così come vedere partite di Serie B dal vero in televisione, come ho fatto, direi un po' tutto, vedere gli altri come si muovono, vedere le squadre degli altri cosa fanno ed è stato interessante. Sì, c'è sempre da imparare. Ha visto, credo, anche l'Empoli di Sarri, ed era l'allenatore di cui volevo parlare, cioè Sarri al Napoli, quindi sulla panchina di una grande, cos'è, una scommessa? È finalmente il trionfo del merito, perché Sarri ci è arrivato con una gavetta, come la legge lei? Beh, è anche questa una chance data a un allenatore che è partito da lontano e che si è costruito una carriera senza aiuti, con la sola forza della sua competenza, della sua serietà, e credo che abbia meritato questa chiamata. Empoli e Napoli sono due realtà nettamente diverse, quindi non sarà semplice per lui, però ha dimostrato di saperci fare, l'età è giusta, è quella giusta, secondo me giusto provarci. Ma la ricorda un po' a inizio carriera, per approccio al gioco, per approccio alla carriera stessa? C'è qualche analogia? La tuta probabilmente, quella da lavoro usata durante la partita, senz'altro, perché per me la partita è un giorno di lavoro e vedo che anche lui ha sempre usato la divisa sociale. Poi per il resto sì, ci può essere qualche analogia, indubbiamente sì, tra me e lui, senz'altro. Ma di telefonate da Udine quante ne sono arrivate quest'anno? Un po' sì. Telefonate da Udine? Di? Di vedove di Guidolin ce ne sono state molte in questa stagione, o sbaglio? O era una suggestione mediatica il fatto, insomma? Ma comunque... io credo di aver lasciato un ricordo importante a Udine, ma credo di aver dato anche molto all'Udinese, e anche perché Udine è una terra nella quale i giocatori e anche gli allenatori si sentono di passaggio. Io invece avevo deciso di rimanere lì, di mettere radici lì, di non andarmene mai più via da lì, e se avessi cominciato un nuovo lavoro con l'Udinese avrei mantenuto la mia parola. Questo piace molto ai friulani, perché quando un giocatore raggiunge la notorietà e la fama e poi se ne va, lascia un po', lascia, come dire, dei vuoti, no? E avere l'allenatore invece che aveva deciso di rimanere lì per tutta la carriera è piaciuto molto, al di là del fatto che sono piaciuti forse ancora di più i risultati ottenuti, perché nel nostro lavoro contano molto quelli, ma il fatto di avere giurato, promesso fedeltà a quei colori, credo sia stato molto importante. L'ho fatto naturalmente perché me la sentivo di fare, e credo sia un qualcosa che a Udine non dimenticheranno. No, ma tra l'altro stanno arrivando anche tantissimi messaggi, non solo da Udine. C'è chi chiede perché ha rifiutato la panchina del Vicenza, c'è chi è il nipote di un giocatore, Enzo Scaini, che ha giocato nel Verona, scrive questo amico Roberto da Lodi, insieme a Guidolin. Poi magari adesso gli facciamo rispondere. Abbiamo un minuto di traffico, chiedo un minuto di pazienza a Francesco Guidolin, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Allora, chiedono se Guidolin è stato chiamato dal Verona, Gaetano. Cosa rispondiamo? Rispondere. Sì. Io se devo vuole, dire che no, certo risponderò, che alcune chiamate sono arrivate. Adesso non fatemi dire, non è bello per chi magari quella panchina ce l'ha o insomma non mi va, però certo. Non posso dire di essermi sentito dimenticato, perché pur sapendo le persone, o pensando le persone che mi hanno contattato, che io fossi ancora legato all'Udinese, sono stato contattato, ma già da gennaio a febbraio, per l'anno scorso, appunto, per la stagione appena conclusa, quindi per il finale di stagione e per la prossima stagione. E però io ho tergiversato, ho preferito insomma vivere completamente questa stagione in questo modo. E da adesso in avanti, siccome sentivo proprio il bisogno di ricaricare le pile, e credo che l'anno sabbatico faccia bene a noi ogni tanto, soprattutto, beh, chiaro, chi ha la possibilità poi ed è quasi certo di trovare una nuova panchina, secondo me per quelle persone è consigliabilissimo, perché ogni 4-5 anni, secondo me, fermarsi un po' aiuta ad allontanare il logoramento che inevitabilmente questa professione fa. E mi sono ripromesso da quest'anno di prendere in considerazione qualcosa che mi possa interessare. Se arriva qualcosa di... Adesso ormai penso sia tutto... Sì, ma può essere anche a stagione in corso. L'importante è che poi dietro ci sia un progetto che evidentemente non si limiti ai 6 mesi. Insomma, credo di interpretare così il suo ragionamento. Sì, ma mi interessa il progetto, la serietà delle persone. Posso anche aggiungere che mi piacerebbe più l'estero che l'Italia, però all'estero è meno facile che in Italia per uno come me. Ma quindi guardo le cose con serenità. Ecco, questo la serenità me la posso permettere, questo senz'altro. Pier. La storia della grande, che insomma, risultati alla mano, Guidolin avrebbe stranitato, dico senza viaggeria, al di là del fatto che poi Udine è stata grande, nel senso che poi ha fatto 2 preliminari di Champions, ha ottenuto i risultati, ma insomma parliamo di bacini di utenza, di piazze, no? Tutti quei famosi discorsi anche sulla comunicazione, Guidolin, sul physique du rôle, come direbbe Galliani. C'è questa, c'è l'anima in pace sul fatto sì, che... Sì, sì, sì, sì, Pier, sì, sì, c'è l'anima in pace per questo motivo. Quando ero giovane io... quando ero più giovane avevo voglia di prendere una grande squadra, avevo un come dire un temperamento di questo tipo e sembrava che non fosse non potessi fare la carriera se non allenavo un grande club. Il grande club non c'era, anche se quando ero più giovane ho avuto lo stesso alcuni contatti. Nell'ultimo periodo li ho avuti i contatti con alcuni grandi club, un paio di grandi club, e ho rinunciato io. Quindi questa è la mia storia professionale, perché ho rinunciato perché preferivo rimanere a Udine, non ho rammarico, le scelte sono state mie. E quindi devo dire che anche da questo punto di vista posso vivere serenamente. Sì, sono le fasi della vita e della carriera. Prima di salutarlo, a grande richiesta del nostro Giorgio De Luca, come andrà Nibali al tour? Ah. A grandissima richiesta, perché sennò non ci fa chiudere il blocco. Qui ci sarebbe da ragionare un bel po', e sarò lì perché probabilmente andrò a vedere alcune tappe del tour, come quasi tutti gli anni faccio. Sarà un tour bellissimo, ci sono quattro campioni, quattro corridori che arrivano a questo appuntamento o sicuramente al massimo della forma, ma con percorsi diversi. Nibali, Contador, Quintana e Froome. Io penso che sarà spettacolare. Non sarà facile per nessuno dei quattro, quindi non sarà facile neanche per Nibali. Però Nibali ha dimostrato lo scorso anno di poter reggere il confronto, quindi sono sicuro che farà un grande tour e naturalmente da italiano mi auguro che lo possa vincere. Certo, grazie mister. Grazie, grazie a voi. Ciao. Buongiorno e buon lavoro a voi. Grazie. Ciao. Francesco Guidolini, è stato davvero un piacere, Pierre. Sono arrivati tantissimi messaggi al 349-238-6666 di tifosi friulani e non solo. Ma sì, ma un grande uomo di calcio, poi insomma io noto anche a livello di comunicazione dopo tanti anni, no, ci può essere la stagione che ti riesce meglio, la stagione che ti riesce peggio, il momento in cui sei più simpatico, però poi insomma alla fine viene riconosciuta la qualità, lo spessore, no, di un personaggio come Guidolin, al quale forse è mancato dal punto di vista mediatico, come dicevamo prima, un po' di... No, un po' glamour che avrebbe fatto sì, bene. E anche la famosa tuta rischia di essere un limite. Vedremo come affronterà il tema volte, Sarri, però, adesso che è in una grande piazza, perché non è detto che possa fare le stesse cose che ha fatto ad Empoli. Noi osserveremo, ma discorso fatto già per Malesani oramai tanti anni fa. Roberto D'Alessandria, 800 24 00 24. Roberto. Ecco, prima complimenti per la trasmissione. Grazie. Con la pacatezza che ha trattato tutti gli argomenti. Un saluto a Guidolin, che è una persona ottima, e io sono un tifoso del milanista da anni. Volevo parlare del Milan, se secondo voi potrebbe essere un problema politico, perché da discorsi fatti circa un mese fa si diceva che per avere più voti, secondo me, Berlusconi attirava i tifosi milanisti. Passate le elezioni, erano solo tutte voci. Sì, una serie e di annunci elettorali. L'unico acquisto sarà il ritorno di Ibrahimovic. Questo era quanto avevo sentito dire circa un mese fa. Cosa ne pensate voi? Che secondo me non è questa la lettura. Non c'era. Per carità, io lo dico perché altrimenti scateniamo gli amici. Forse a maggio Berlusconi ha fatto della comunicazione del Milan, insomma, anche un veicolo. Però i soldi quest'anno poi ci sono, c'è un accordo anche che vende metà della società, quindi insomma. Ma poi al limite maliziosamente si può pensare al discorso legato a Ibrahimovic, legato a Ancelotti. A quei giorni di riposo che Ancelotti si è preso proprio a cavallo del voto regionale per dare la sua risposta definitiva, che poi è stata negativa, ma ripeto, cioè questa è una ricostruzione secondo me maliziosa, alla quale io onestamente non è che creda più di tanto, ma adesso poi cosa c'entra? Insomma, adesso le elezioni non ci sono, non è che qui è successa una cosa di mercato, di quelle cose che possono succedere, che sicuramente ha fatto arrabbiare il Milan, perché è evidente che quelle fossero delle prime scelte per il club rossonero, quindi oggi non è che il Milan può fare quello che dice avete speso troppo, no? Perché la stessa cifra la stava spendendo il Milan. Però penso pure onestamente che non è che adesso senza Condogbia e Jackson Martinez non si può giocare a pallone, secondo me. No, l'importante è non sbagliare adesso, certo, i soldi ci sono, servono un grande attaccante, un grande centrocampista, poi una seconda punta. e poi anche un difensore centrale, perché questo è l'agenda del mercato del Milan, così come è stata delineata, basta non sbagliare e sicuramente sarà un Milan più interessante di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni. C'era già un amico da Brescia, lo facciamo dopo il GR delle 15. Pier, ti saluto. Ciao, amico mio. Ciao, ciao. Noi torniamo subito. Ciao Pier, dopo il GR delle 15, 800 24 00 24 ci sarà Marco Bellinazzo, parleremo del Parma, del Milan, risponderemo anche alla domanda che tanti si fanno, cioè perché l'Inter spende se ha tanti debiti ed è sotto sanzione UEFA? Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire? Arieccice. Tutti convocati. Hai la tigre Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la brecha del genio del football mondial. Inés el tercero, tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio. Giugno 1986, Victor Hugo Morales che raccontava il gol del secolo, il gol del 2-0 di Maradona contro l'Inghilterra. Oggi 22 giugno 2015, Victor Hugo Morales che ha annunciato al mondo che Maradona è pronto a candidarsi alla presidenza della FIFA. Marco Bellinazzo, ciao. Ciao. Mi fate risentire un attimo il barilete cosmico? Poesia, poesia. Prego Marco. Guarda, Maradona corre a presidente. Se recuperi un pezzo di qualche settimana fa, l'avevo scritto, era non una predizione, un po' una provocazione legata al fatto che, come sappiamo, Maradona è stato il primo che da sempre ha ingaggiato questa guerra con Blatter e quindi ho scritto che non mi avrebbe meravigliato, insomma, un'eventuale candidatura. Sì, candidatura di bandiera, se si candida, perché i giochi sono altri. Chiaramente mi sembra appunto un segnale, un bel segnale, diciamo, di chi ha vissuto il calcio in un certo modo, ha avuto tanti problemi, lo sappiamo, ma resta un idolo per moltissime persone in tutto il mondo. Giochi, come hai detto tu benissimo, sono altri e si faranno in altri luoghi. 800 24 00 24. Adesso facciamo il punto sui mille argomenti, ne abbiamo parlato anche prima, dal Parma al Milan all'Inter. Questa notte però c'è stata la Copa America, Colombia-Perù 0-0, e la Colombia rischia di perdere James Rodriguez per una gomitata a un avversario, così come il Brasile ha perso Neymar perché la federazione non ha nemmeno presentato il ricorso e quindi Neymar torna a casa. Brasile che ha vinto lo stesso 2-1 contro il Venezuela con Thiago Silva e Firmino. Thiago Silva! Silva explota la torcida brasileña y en 8 minutos del primer tiempo el marcador está Brasil 1 Venezuela 0. Pasa abierto, ahora recibe William, dejó atrás a Rosales, se acerca al área William, de revés el centro, punto penal, gol brasileño. Firmino y la sentencia, Firmino y la clasificación, gol. gol de Brasil. Apareció Roberto Firmino. Brasile che va ai quarti, incontrerà il Paraguay, si va verso una semifinale Argentina-Brasile, l'Argentina incontra la Colombia, poi ci sono Cile, Uruguay e Perù-Bolivia. Questo per le notizie dal Sud America. Notizie da casa nostra invece, oggi ore 14, il Parma è ufficialmente fallito e io credo, Marco, che sia l'esito forse scontato, anche se dicevamo prima con Pierluigi Pardo è stato fatto tanto per cercare di tenere il Parma in vita. Sì, tecnicamente ci sarà ancora una riunione nel pomeriggio tra il comitato dei creditori e i curatori fallimentari, ci sarà poi un comunicato che dovrebbe sancire appunto il ritorno del Parma tra i dilettanti a seguito di questo fallimento frutto di tante colpe, di tante miopie che sarà giusto e necessario più che mai accertare affinché non si ripetano più episodi di questo tipo che distruggono solo un movimento calcistico che sicuramente non ha bisogno di ulteriori scandali come quello che ha caratterizzato il Parma quest'anno. Sì, è stato fatto tanto, è stato fatto tutto, però alla fine, ed è il motivo per cui si sono ritirate le ultime due cordate, non c'era nemmeno la certezza che quel debito sportivo certificato dal Tribunale 22 milioni fosse in realtà il vero debito. Un debito che inizialmente era stato indicato in 74 milioni, poi si è scoperto che era di 88, poi è sceso per una serie di interventi dei curatori a 22 milioni, il problema è che il Parma aveva ancora sotto contratto più di 130 giocatori e chiunque fosse subentrato avrebbe poi dovuto far fronte a questa massa di stipendi e di eventuali cause da parte di chi era stato escluso dai curatori, e quindi evidentemente le due cordate hanno preferito una ieri notte, un'altra stamattina, quella di Piazza, di ritirarsi e di non presentare nessuna offerta formale. La strada è quella della partenza dalla Serie D dai dilettanti, poi vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché di voci se ne raccolgono tante, però le regole questo dicono. Parliamo un po' di mercato, di Kondogbia, di Milan, di Inter. La domanda che in tanti fanno, e ti fanno anche, lo so, su Twitter e su tutti i social: perché l'Inter, che è piena di debiti ed è sotto sanzione UEFA, può spendere 40 milioni per un giocatore? È una bella domanda a cui andrebbe data un'altrettanto bella risposta, che non è semplice da trovare, però noi abbiamo il dovere di guardare i conti, di guardare a quella che è la situazione finanziaria e di dire come stanno le cose. Poi ai tifosi può non piacere e possono anche insultarti via Twitter come qualcuno ha fatto, ad altri che magari sono più intelligenti può essere piacevole, insomma può far piacere sapere come stanno le cose. L'Inter ha chiuso a meno 100 lo scorso bilancio, ha debiti da ristrutturare per 230 milioni, ha tutta una serie diciamo di obblighi che Toir sta affrontando, compresi quelli imposti dalla UEFA, che prevedono che si faccia un mercato più o meno in pareggio e che non si spendano troppi soldi aumentando i cosiddetti ammortamenti. Nel caso di Kondogbia, con 36 milioni si avranno spalmati su 5 anni 7 milioni all'anno di ammortamenti più 8 milioni di ingaggi all'ordo. Quindi pesa per circa 15 milioni. Il peso è notevole. Chiaramente questo impatta su una situazione finanziaria e patrimoniale delicata. Io non ho mai parlato, diciamo, di fallimento, come molti si accusano di aver fatto, ho solo parlato di una situazione molto delicata che va tenuta sotto controllo, come la UEFA sta facendo. Lo sta facendo la UEFA, non lo sta facendo Marco Bellinazzo, insomma, che non ha poteri. C'è però una serie di cose positive da dire, perché molto probabilmente nell'accordo di ristrutturazione che ha fatto l'Inter con Goldman Sachs e Unicredit, per cui la parte migliore dell'Inter è impegno a Unicredit per conto di Goldman Sachs, c'era una clausola, e qui Toir è stato molto bravo a farsela inserire, per cui nel caso di mancata qualificazione per un anno, in questi 5 anni in cui il debito deve essere restituito, detto, se l'Inter appunto non si fosse qualificato in Europa, non si sarebbe dovuto più pagare alcuna rata per quell'anno, una sorta di pausa, di sospensione del mutuo senza nessun aggravio, e questo evidentemente dà uno spazio all'Inter, che quest'anno non avrà il monitoraggio della UEFA perché non partecipa alle coppe, per cui è evidente che la dirigenza ha scelto di sparare le cartucce che ha, perché è indispensabile andare in Champions, come è stato fatto, sì, in gennaio. Noi ci rifiutiamo di dire che è uno all-in, perché altrimenti viene interpretato male, ma lo stanno facendo anche altri, vale anche per il Milan che investe tanto, guarda, quest'anno. L'espressione l'ho usata, ecco, e la riuso adesso, perché non è, diciamo, un'espressione che di per sé è negativa. Non è una bestemmia. Puoi anche vincere, non è detto che tu perda. Ci deve essere però la responsabilità da parte nostra, di chi fa questo mestiere, di chi si occupa in particolare di questioni economiche e finanziarie legate ai club, come faccio io e come fai anche tu, di dare degli allarmi, di segnalare dei rischi che ci sono, perché altrimenti non faremmo il nostro mestiere. Ripeto, poi se alcuni tifosi vogliono avere i paraocchi e non guardarli, va bene, non c'è nessun pregiudizio sull'Inter o sull'operato di Toir, anzi, per il bene del calcio italiano sono ben contento che l'Inter torni subito a grandi livelli, ed è verissimo anche che per esempio quando il Barcellona nel 2003 si ritrovò in una situazione simile all'Inter, quasi prefallimentare, decise in parte di tagliare i costi ma anche in parte di investire, acquistò Ronaldinho e sappiamo oggi il Barcellona dov'è. Sì, quindi... per fare da volano di una ripresa, in attesa di Riccardo da Roma, che adesso coinvolgiamo, c'è un amico che scrive al 349-238-6666 chiedendo se i giocatori del Parma adesso sono tutti svincolati, anche quelli in comproprietà. La risposta è sì. Di fatto sì, per esempio il Cesena, che avrà la possibilità di avere tutto De Frel, avrà la possibilità di venderlo a una quota importante, ed è un elemento essenziale, sarà un elemento essenziale per il mercato di questa squadra, e lo stesso accadrà per tutte le altre comproprietà. Sì, c'era Juventus, pare, su Jose Mauri, che è uno dei giovani più interessanti del Parma. Poi c'è Carlo da Cremona che chiede perché l'Inter fa mercato senza gli italiani, perché sono scelte. Poi io rispondo anche a quelli che si chiedono, ora che sono cambiate le norme che dall'anno prossimo impongono anche in Serie A un po' le rose bloccate come capita per la Champions League, l'anno prossimo c'è una deroga, non 4 giocatori dal vivaio più 4 di formazione italiana, ma potranno anche essere 8 di formazione italiana, e io sono convinto che l'Inter si presenterà il 31 agosto con la rosa in ordine. Riccardo da Roma. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Buongiorno. No, volevo parlare a proposito del Milan, no? mi richiamo a quello che disse una sera Sconcerti: questa operazione non è chiara. Secondo me questi veramente non hanno un euro da spendere, perché dove si è mai visto che un mercato con un allenatore nuovo di zecca, che ha le sue idee di calcio, non viene interpellato da nessuno, un suo desiderio, uomini che lui cerca, non c'è un summit, niente. Se vediamo a Napoli è arrivato Sarri in una operazione, se vogliamo, molto più modesta sulla carta ma molto più sostanziale, già è stato accontentato, anche se il Napoli si sta un po' provincializzando, questa è una strada obbligata, ma anche quindi il Milan sta fingendo, è questo che dici, Riccardo? Il Milan sta fingendo perché alla base c'è un equivoco sul passaggio di queste quote, e nessuno al mondo, come hanno detto in tanti, mi sembravano tanti così supponenti, ma in realtà è vero, e Berlusconi non può comandare sempre coi soldi degli altri in questa situazione. E quindi probabilmente c'è un equivoco di base, cioè un'operazione non chiara, per cui ti soffia un giocatore di quel prezzo una squadra che non si potrebbe muovere per il bilancio. Sì, io non credo che Milan non abbia un euro, l'abbiamo detto anche prima con Franco Ordi e con Pierluigi Pardo, poi è evidente che i tifosi del Milan escono da un sabato nerissimo, Marco, e quindi vedono tutto nero, ma in realtà molto sta cambiando e molto è cambiato come prospettiva nel Milan. Assolutamente, cioè io forse si è confuso, come dire, sarà sbagliata anche la comunicazione, certi tweet con le foto di Lucas e Galliani forse andavano evitati. mercati. L'operazione non è conclusa, cioè c'è un preliminare di vendita, entro fine luglio la vendita dovrà essere fatta, entro fine luglio arriveranno i soldi nelle casse della Fininvest. Chiaramente la Fininvest può scegliere di anticipare 120-150 milioni per il mercato, ma finora non lo ha fatto, ha coperto quelli che erano i buchi di bilancio e le necessità quotidiane, per cui diciamo che i giocatori indicati, i nomi che sono circolati sono stati sondati, ma non c'era già quella piena disponibilità economica per prenderli, hanno scelto altre strade, Congobia anche per motivi personali, e nell'operazione Congobia io credo sia stato anche molto, diciamo, da parte di Galliani nel tentare di dar fastidio agli avversari, di far alzare in qualche modo il prezzo. Spesso ci ha abituato a queste tattiche, chiaramente immagino che i tifosi del Milan avrebbero preferito averlo Congobia e non vederlo in nerazzurro l'anno prossimo, però il mercato è appena iniziato e ripeto, i conti tra entrate e uscite, rispetto dei parametri e quelle che saranno poi le effettive spese, soprattutto se saranno state fatte in maniera proficua o meno, lo si vedrà tra qualche mese. Insomma, il mercato ufficialmente non è nemmeno ancora iniziato, no? Il 1 luglio. Sì, e non si può, e poi ci sono battaglie di mercato che si possono anche perdere, ed è il caso, ad esempio, della questione Condobia vista dal lato del Milan. Marco, chi è che parlava prima del Napoli? Vi faccio sentire De Laurentiis oggi su Sarri. Diamogli il tempo anche di tonificarsi, riposarsi, si sta studiando le 60 partite del Napoli, sta verificando quindi su un televisore, su uno schermo, come funzionano certi giocatori, secondo quello che è il suo modo di giocare, e quindi tra poco poi lo presenterò. Hai capito, Marco, perché De Laurentiis non ha ancora presentato Sarri? Perché sta studiando al televisore. Sì. Giustamente, ma tra l'altro l'ha visto dal vivo il Napoli, l'ha battuto 4-2, quindi sapeva bene quali erano pregi e difetti di quella squadra, Sarri. No, il Napoli, appunto, l'ascoltatore prima lo diceva, sempre per questioni economiche, il Napoli ha perso 100 milioni quest'anno, tra agosto e maggio, perdendo la partita a Bilbao e con quel rigore sbagliato da Higuain. Per una squadra che ha 120-130 milioni di fatturato significa aver perso un anno. Perdere un anno significa dover ricominciare da capo, e De Laurentiis ha fatto questa scelta che a molti non piace. E a me personalmente, devo dire, Sarri non dispiace. L'unica questione, l'unico serio dubbio che ho è sulla pazienza che dovrà avere il popolo dei tifosi napoletani rispetto a un allenatore che ha bisogno almeno di 2-3 mesi per impostare un certo tipo di gioco, e soprattutto nel capire se certi grossi campioni, che magari perché in mancanza di offerte resteranno a Napoli, sapranno seguirlo e sapranno fare quei sacrifici che il gioco di Sarri richiede. E poi in fondo il Napoli può iscriversi, mentre, come anche oggi ha ripetuto De Laurentiis, Tavecchio mi ha detto che soltanto 3 club in Italia rispettano i parametri e possono fare la Serie A. Io non so cosa è un po' forzato il concetto, ma non è sbagliato, in diciamo assoluto. Che io, diciamo che per quello che mi risulta, sono state fatte, diciamo, delle simulazioni, ovviamente sulla base dei nuovi parametri, anche tanti esperti di queste materie, esperti contabili, le hanno fatte, e effettivamente ci sono tante squadre che in questo momento non avrebbero diritto a iscriversi alla Serie A alla luce di questi parametri. Non a caso la FIGC li ha introdotti, ma con una gradualità nel tempo, proprio per permettere ai club di adeguarsi e di ritrovare un equilibrio economico, così come sta avvenendo in Premier, così come è da sempre invece in Bundesliga, perché è giusto, insomma, investire, ma è giusto che lo si faccia dando alle squadre una sostenibilità nel tempo. Quando io parlo di preoccupazioni sull'Inter, e ripeto, il fallimento è un'ipotesi estrema che ci può stare per qualsiasi squadra per la quale si crea un dislivello di 100 milioni come attualmente l'Inter, però è evidente che l'ultima frontiera, no, di un percorso in cui viceversa, accorgendosi di certi disequilibri, si può magari accettare di averli un anno per poi rilanciarsi, ed è il progetto Mancini, questo rappresenta il progetto Mancini per l'Inter, sperando magari che Mazzarri trovi una panchina l'anno prossimo. Sì, cosa che al momento non è successa, quindi l'Inter continua a pagare due allenatori. Marco dalla provincia di Imperia, poi ti saluto Marco. Marco? Sì, salve, sono Marco. Eccoci. Io volevo parlare di basket. Sì. Della squadra Olimpia Milano. Sì. Se secondo voi quanta responsabilità di questo anno praticamente che ha fallito l'allenatore Banchi nella stagione disastrosa di Milano? Immagino una parte importante, così ci hanno anche raccontato i tanti esperti con cui abbiamo parlato in questi giorni. Milano ha sbagliato tanto, non è stata all'altezza, non è nemmeno stata all'altezza della stagione precedente, non solo per lo scudetto, vale anche per il discorso dell'Eurolega. Poi a me è impressionato molto parlare con Meo Sacchetti il giorno dopo l'impresa della vittoria di gara 7 al Forum, quando lui ha raccontato: se tu prendi due volte quel rimbalzo sulla palla decisiva, non è fortuna, non è un caso, vuol dire che mentalmente sei preparato bene, vuol dire che in campo tatticamente sei messo meglio dell'avversario. Credo che quella palla sia un po' la sintesi della stagione di Milano tutta, Milano che dovrà rifondare o quasi, e di questi giorni abbiamo letto della partenza di Hackett che vuole un contratto nell'NBA. Per chiudere con Marco Belinazzo, 30 secondi, so che sei a Udine, dove c'è un progetto di azionariato popolare. Ad Ancona, scusa. Parlando di Ancona, sì, Udine sono ben altri progetti di internazionalizzazione. No, c'è un bel progetto, i tifosi avranno la maggioranza della squadra e di fatto la una squadra professionistica, è Lega Pro, in cui si realizza quella che può essere una forma per le squadre, diciamo, di medio a bassa caratura o le squadre di provincia che non possono permettersi grandi spese, e invece per stare nel calcio professionistico attraverso la partecipazione dei tifosi, la partecipazione economica, ma anche la possibilità che questi stessi tifosi abbiano voce in capitolo. Se ne è parlato tanto in Italia di azionariato popolare, diciamo questo è il progetto, non è proprio una forma di azionariato popolare, ma che si avvicina di più. Io credo che si possa guardare con grande interesse a situazioni e evoluzioni di questo tipo, insomma. Stiamo sempre parlando però di realtà più piccole, visto che si è favoreggiato questo inverno di azionariato popolare per l'Inter, sì, o per grandi, certo, club. Però Giovanni, ricordiamo che le tre squadre più importanti al mondo, con i fatturati più importanti al mondo, Real, Barcellona e Bayern Monaco, di fatto stiamo parlando ovviamente di altri pianeti, ma di fatto sono costituite da migliaia di soci, da associazioni che permettono a questi soggetti tifosi di partecipare anche alle scelte come il rifacimento dello stadio, versando delle quote, e quei 40 milioni che mediamente incassa per esempio Barcellona, 30 milioni Real Madrid che incassano all'anno dai tifosi, insomma, farebbero comodo a tantissime squadre italiane. Quindi perché non immaginarli anche per grandi club italiani, visto che il mecenatismo è finito e magari... Sì, in attesa che arrivino le sceicche anche da noi. Non sono arrivati proprio sceicchi e oligarchi russi, insomma, ma il favore finanziario non l'avrebbe nemmeno permesso d'altro canto. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Grazie a Marco Belinazzo, abbiamo finito. C'è anche chi scrive: il Milan da luglio paga tre allenatori, non è vero, Seedorf è pagato tutto col bilancio 2014, quindi paga Inzaghi e Mihajlovic, che oggi ha detto che il Milan tornerà grande. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani torna Carlo Genta. Ciao. Tutte puttanate.